100 volte sul microfono e nessuno sa chi sono. Da 7 anni me la canto e me la suono. E faccio sold out seduto sul mio trono. Nel futuro, come previsto, niente di buono. 7 anni in Tibet ma avrebbero cambiato. 7 anni in uno studio ma hanno solo peggiorato. Indesto altri pezzi ma questo quando smette. Mi piega e non mi spezzi, piuttosto le manette. Oggi come prima spacca la mia rima. Ma chi mi conosce? Nessuno come prima. E sono 7 anni che mi supporto. Speravo nella crisi ma ancora mi sopporto. E qui non è cambiato un cazzo come l'iPhone 7. Ho rime a flotte come i Boeing 777. Tante citazioni dette tra virgolette. Sempre Giuseppe anche nel 2017. E sono 100 volte al microfono. Non ho un cazzo da fare come rompi coglioni al citofono. E sono fortunato ad essere amato per quello che sono, nessuno. E sono 100 volte al microfono, non ho un cazzo da fare come rompi coglioni al citofono. E sono fortunato ad essere amato per quello che sono, nessuno. E metto in chiaro un altro punto di questa faccenda. Volevo un pezzo della torta per farci merenda. Ma pezzo dopo pezzo con questo siamo accendo. Spengo le candeline ancora nel cemento. E come già detto nei 99 precedenti, io sono nessuno, ma chi rompe il cazzo mostra i denti. E non manda a puttane ciò che ho fatto fino adesso. Come non bago puttane solo per farci sesso. Perché ho rime nella testa, le mie seghe mentali. Qui si diventa ciechi, masturbatori seriali. E rinasco più splendente dopo ogni rapporto. Ribadisco più di prima, non sono ancora morto. Anche quest'anno è sottolineo anche su sto beat. Ho strofe a punta di coltello e rime con vitco. Qui preparo ricchietelle e cibo da rap. Sono fuori e tolgo il grembiule come a Masterchef. E sono 100 volte al microfono. Non ho un cazzo da fare come rompi coglioni al citofono. E sono fortunato ad essere amato per quello che sono, nessuno. E sono 100 volte al microfono.